A pane, burro e rock and roll, sono le 8 e qualche secondo. Quasi 8 e 1. Pane, burro e rock and roll. La tua trasmissione rock, eccoci qua. La tua colazione rock. In diretta fino alle 9. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Diamo il benvenuto anche ai nuovi arrivati, alle nuove arrivate, i fortunelli e le fortunelle che si svegliano solo adesso. Chi c'è, chi c'entra? Spadino, ce la puoi fare anche questa seconda ora? Proseguiamo dritti fino alle 9 del mattino. Abbiamo, essendo lunedì, un nuovo film che ci terrà compagnia fino a venerdì. Siamo andati su una commedia americana, vediamo se la riconoscete, dai, tanto poi potremo ascoltarla fino a venerdì. Restate con noi, oggi c'ho il tormentone, restate con noi. Vabbè. Signore, che c'è? Posso parlarle un attimo, per favore, signore? Allora? Ho dei problemi con il radar, signore. Non hai bisogno di quello, sergente, siamo qui, allora cosa c'è? Ho dei problemi con il radar. Allora, che c'è? Ho dei problemi con il radar, signore. Che c'è che non va? Ho perso i beep, ho perso gli sweep e ho perso i kick. I cosa? I cosa? Sapete, i beep. Gli sweep. E i kick. Deve aver perso anche il cervello. Caro Freak, non so cosa stia esattamente per succedere, perché Spadino dice di avere il nostro piccolo Francè al telefono, ma a quest'ora dovrebbe essere a scuola. Ricordiamo ai radioascoltatori che solitamente prima di questo orario lo sentivamo nel tragitto per andare a scuola. Sì, il nostro piccolo teppista, che è giovanissimo, bambino, sì, che non vuole andare a scuola e che è innamorato dell'heavy metal. Tra l'altro, se adesso è al telefono vuol dire che a scuola non c'è andato. Esatto. Francè, dove sei? Burro, perché sussurri, Francesco? Sto a scuola. Come stai a scuola? bagno, sta al bagno alla scuola. Ah, ci stai chiamando dalla toilette. Sì, sì, sì, sì, perché mi sono fatto tardi oggi. Non sono riuscito a rubare il telefono a mamma, allora va un amico mio. Senti, beh, prima di tutto siamo contenti che finalmente sei a scuola. Comunque sia, nell'edificio scolastico. Esatto. Almeno questo. Sì, sì, sto al bagno. Oh, raga, sono contentissimo, c'ho la giacchetta nuova. La giacchetta nuova. Ah, la giacchetta. Una giacchetta metal, è come... È bella, è nera, è di pelle. Ah. Pelle nera. Che barchi! Un chiodo! C'è il bettone sopra, il filetto metal! Metal! Sai come si chiama in gergo? Sai come si chiama, Francesco, in gergo? Il chiodo! No, fric, quelli sono i chiodi che metto io sulle ruote di mamma, dai, non mi guarda in giro, no? No, è vero, il giubbotto si chiama il chiodo, ha ragione, fidati, fric. Fidati, no, il chiodo. No, dai, raga, non mi guarda in giro, i chiodi sono quelli che uso io. Ma non ti fidi di nessuno, Francesco, fidati. Si chiama chiodo davvero? Si chiama chiodo davvero, te lo possiamo garantire. Sì. Senti, ma allora, e ci hai messo sulla toppetta dei Motley Crue? Cioè, se non le dietro, che bello. Senti, non è giustissimo che tu ci chiami dal bagno, dovresti essere a scuola, ma sono contento che sei contento. No, ma perché se sto a chiamare? Perché volevo, secondo voi, un'opinione vione. Di cosa? Che ne pensate? Dico del chiodo? Eh beh, è un bel... Bello. Un bel giacchetto. Sì. Aspetta un po', sta un amico mio. Sì. Aspetta. Sì. Vabbè, la giacchetta? Sì. Pelle di topo? No, oh, pelle di topo, sto cazzo, no, no, Francia, non ti arrabbiare. Non attaccare, no, briga. No, non, no, ti arrabbi, Francesco, no, è, no, caduta la linea, no. Francesco, trattieniti. È scattata la rissa, è scattata la rissa, freak. Perché gli ha detto che la giacchetta era di pelle di topo. Mannaggia. È anche irascibile questo, sì, giovane teppistello. Il Dr. Feelgood, targato Mapai Crew, in onore, in saluto al nostro piccolo Francè, giovane di riferimento, giovane teppista di riferimento. Eccolo qui il vostro Dr. Feelgood, si chiama l'Ariele, ciao ciao, fino alle 9 su Rock FM, il vostro spacciatore di fiducia, il vostro spacciatore di riferimento, ovviamente di buon rock and roll, sia ben chiaro. Con le altre cose ho smesso. Sì. Allora, caro Spadino, caro Frick, cara redazione, andiamo a vedere che cosa accade al 335-100-7777, mentre qui in redazione si prepara il test attitudinale di quest'oggi. C'era un amico che chiedeva una strombazzata per l'esame di teoria della patente di guida. Si firma ripetente di 40 anni, buona giornata anche a te. Oh, Tino Tassista! Qui c'è Filippo che scrive: un saluto al mitico tassista che venerdì ha avuto a bordo mia figlia Vittoria e l'ha riconosciuta grazie alla telefonata in diretta fatta con te. E Tino, non ci dici niente. Qua iniziano a riconoscerti, eh? Buona, caspita. Saluto allora anche alla nostra gemellata Fiorentina Sab da Firenze. Facci sapere anche tu se sale qualcuno sul pullman salutandoti, eh? Saluti dal papà che porta i figli a scuola, oggi accompagnato da mini rocker di 5 mesi, Sergio, Susanna, Silvia e la piccola Sabrina. Ciao. Ciao Isa, grazie. Ciao, vediamo di fare un po' di nomi. Savona A7. E mi chiedono di chi sono e di chi è lo stacchetto fatto con le chitarre acustiche, che sono gli amici Lombroso. Consigliatissimi da Pane, Burro e Rock and Roll. Leo 68, ciao. Antonio da Furlè, saluti. Fly, che ci fa sapere che diventa maggiorenne sua sorella Milù. Le facciamo gli auguri, sì, siamo gemellini. Ciao Carla la prof, ciao Giorgio Tramezzino, ciao Ara, ciao Espander 9 da Firenze, ciao Marco, ciao Lucio da Firenze, Davide da Milano, Andrea da Milano, sì, Dami 92, Elena 68. Guarda che diamo veramente i numeri qua a Pane, Burro e Rock and Roll. E invece salto perché c'erano altre strobazzate, vediamo se le ritrovo. Oggi compio anch'io 32 anni, mitico Miki patente 320. Eccolo lì. Oggi sono agitata perché è il mio primo giorno di lavoro, ma voi mi aiutate grazie del buon rock and roll. Viola patente 191. Oh, Viola, beh, insomma, spacca tutto, eh? Primo giorno di lavoro, è importante. Leo riconosce Balle Spaziali, il film che ci terrà compagnia fino a venerdì, un film alla settimana. Con i Motley Crue mi avete dato la sveglia, altro che Red Bull, Cesare da Milano. Un saluto anche a Sere da Pisa, meno male che ci siete voi la mattina. Viva Frigo e Rogna! Ragazzi, ce la faremo anche quest'oggi, ma sicuro che ce la facciamo, perché dalla nostra parte c'è il buon rock and roll. Riprende la festa da Pane, Burro e Rock and Roll. Hai visto, l'ho fatto in sincro con loro. Si chiamano Jet. La domanda è una sola: are you gonna be my girl? Ti va di diventare la mia sbarba? Dico bene, Frick? Dico bene. Sbarbine di tutta Italia, questa è per voi. Take my hand and come with me, because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair, she's so sweet with her get back stare. Well, I can see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. said, are you gonna be my girl? It's one, two, three, take my hand and come with me, because you look so fine that I really wanna make you mine. Really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I can see you hung with me, but you were with another. I said, are you gonna be my girl? Senti che faccio la solo. Finger tapping. Che assolo. I Jet, are you gonna be my girl? Di nuovo un po' di sana interazione. Avevo una mail custodita lì che volevo leggere, firmata, vediamo un po', Alessandro da Milano. Si intitola Orgoglio Paterno e fa parte di quel calderone di segnalazioni di educazione dei propri marmocchi che qua a Pane, Burro e Rock and Roll apprezziamo molto. Tra l'altro lancio un appello in anticipo. Ci servirebbero dei bambini. Adesso calmi a far subito gli spirito. Abbiamo bisogno a Pane, Burro e Rock and Roll, diciamo, di 5 marmocchi da far cantare. Quindi se avete figli anche stonati e vi va di portarli qui a Rock FM, iniziate a ragionarci su. Poi ne parliamo con calma. Chiudo l'appello e saluto e leggo la mail di Alessandro. Quest'estate eravamo in vacanza, colazione, e mamma Milly fa: bambini, cosa volete? Pane e Nutella? Pane, burro e zucchero? Lori, 4 anni, risponde: no, mamma, pane, burro e rock and roll. Orgoglio paterno a mille, scrive Alessandro, che segnala anche: settimana scorsa sulla strada per l'asilo, mentre Pane, burro e rock and roll trasmette Jump dei Van Allen, sempre Lori, sempre 4 anni, con sorellina Franci, 2 anni, scatta la gara di headbanging. Troppo mitici. Grazie a mamma Milly, super fan del boss, che mi aiuta a educare i due tappi sulla retta via. Ciao Alessandro. E guarda, complimenti per aver chiamato i tuoi figli tappi. Mi piace, è veramente rock chiamare i propri figli i miei due tappi. Un saluto anche a Lida da Firenze via mail, che segue, dice, le mie trasmissioni da tanti anni, ma è la prima volta che ci scrive, ne approfitta che è il mio compleanno e ci fa gli auguri. Grazie Lida. Beh, è carino sfruttare il giorno del compleanno per farsi sentire anche voi radioascoltatori e radioascoltatrici passivi, almeno fino a oggi. Però non che, visto che la giornata è un po' particolare, non vorrei perdere di vista gli obiettivi di questa trasmissione e soprattutto un corso che stiamo per far partire. È iniziato a girare da settimana scorsa un jingle promozionale che vi invita a diventare musicisti rock con la bocca. Io, fossi in voi, non prenderei sotto gamba questa possibilità di trasformarsi in veri musicisti rock con la bocca. Quindi caldeggio l'iscrizione al nostro numero di SMS. Il jingle in questione recitava esattamente così. Vi ricordo che tra pochissimi istanti c'è il test attitudinale. Iscrivetevi al nostro corso.

tentare di allontanare le accuse di sciovinismo e maschilismo che cadono come pioggia su pane, burro e rock and roll. Ai, terreno minato. Quest'oggi nella domanda del test attitudinale andiamo a parlare di una grande signora del rock. Esatto, abbiamo parlato tempo fa di Patti Smith, recentemente volta di Janis Joplin, recentemente. Quando può capitare ne siamo contenti. Esatto. Parliamo di una donna che negli anni 70 diede un grosso contributo alla storia del rock. Si chiama Vivienne Westwood. Ricordate chi era e cosa fece? Ipotesi A: Vivienne Westwood fu una forte attivista dei movimenti femminili americani, tanto che alla sua tragica scomparsa la città di Los Angeles le dedicò il nome del distretto occidentale del municipio, per l'appunto il Westwood. È questa la soluzione esatta oppure? Ipotesi B: Vivienne Westwood fu la prima fidanzata di Jimi Hendrix e si vocifera nell'ambiente che fu proprio lei a regalare la prima sei corde al mitico, celebre chitarrista Mancino. È la risposta esatta oppure... Ipotesi terza ed ultima, la C. Vivienne Westwood, con l'allora compagno Malcolm McLaren, colui che inventò a tavolino i Sex Pistols, aprì nel 1971, il Let It Rock al 430 di King's Road a Londra. E visti i capi d'abbigliamento venduti in questo famosissimo negozio, la Westwood venne riconosciuta da molti critici osservatori come la creatrice dello stile punk. Fate la vostra scelta ora. Chi era Vivienne Westwood? Ipotesi A, B o C? La soluzione, come al solito, ve la diamo tra poco, e cioè restate con noi, ne parliamo dopo.